Ciao, pronto, ci senti? Sì. Ciao, allora, benvenuta a Cronache di Regime, scusa per il ritardo causa problemi tecnici. Allora, Sì, non c'è niente, problema. insomma, come dicevamo, con te volevamo parlare un po', di quello che è successo anche a Milano riguardo l'alternanza scuola-lavoro e più in generale di quello, se vuoi spiegarci, insomma. Da cosa è partita tutta la mobilitazione e le iniziative che avete messo in campo in seguito alla morte di Lorenzo? Sì, certo, noi siamo assolutamente in generale come collettivo politico Manzoni, la nostra posizione sulla scuola lavoro è che siamo per l'abolizione e infatti abbiamo fatto varie manifestazioni, abbiamo fatto dei presidi delle manifestazioni contro appunto questa scuola lavoro che è veramente pericolosa perché non ci sono norme di sicurezza e soltanto che la risposta che abbiamo avuto da parte della polizia è stata repressiva, sempre. E questo è un discorso che in realtà non si applica soltanto a Milano, ma si applica in generale a varie città. E infatti la polizia è stata violenta e quando noi abbiamo chiesto semplicemente dei diritti, delle cose basiche che per noi sono veramente importanti, non abbiamo avuto una risposta da delle istituzioni in maniera risolutiva, appunto non hanno avuto delle soluzioni e non hanno cambiato niente, sulla scuola lavoro. Sì, Lorenzo è stato l'ennesimo caso di morte sul lavoro, comunque durante i percorsi e i PCTO, e io definirei il caso di Lorenzo proprio un omicidio da parte delle istituzioni e ha dimostrato un'altra volta il completo disinteresse verso la scuola, la sicurezza e la voce degli studenti stessi, che non viene mai considerata nei dibattiti politici se non per essere colpevolizzata. Lorenzo deve essere in classe a scuola ad imparare a formarsi in sicurezza e basta legare la scuola al profitto e non si può morire di scuola e basta all'alternanza. Ok, volevo chiedervi, insomma, appunto avete detto di un po' di iniziative che sono state represse dalla polizia, io anche ero in piazza quel giorno in Missori quando si è provati ad arrivare ad Asso Lombarda e vabbè, quel giorno poi sono state caricate varie piazze, come anche ha detto la compagna. E mi pare che c'è stata anche un'iniziativa questa domenica all'Auletta Studio Autogestita. Non so se eravate voi o altri giri, insomma, di collettivi studenteschi che organizzavano questa iniziativa qui. E quindi volevo dirvi, insomma, quali iniziative invece ci saranno per rilanciare questa mobilitazione contro l'alternanza scuola-lavoro, ma più in generale contro le condizioni generali delle scuole italiane. E se ci sarà anche un rilancio verso il corteo di Dax o organizzerete delle iniziative verso quella data? Ok, e sì, vabbè, ovviamente in risposta a tutto sono state occupate molte scuole a Milano e vediamo che continuano a essere occupate. È stato occupato il Manzoni, Vittorio Veneto, Carducci, adesso anche il Parini e il Bottoni. E niente, siamo scesi in piazza come collettivi di Milano, come abbiamo già detto in molte, come in altre città italiane, dove appunto siamo stati caricati dalle forze dell'ordine, abbiamo ricevuto solo repressione. E niente, continueremo a mobilitarci. Siamo scesi in piazza anche l'11 e il 18 ci sarà la chiamata nazionale e quindi ci sarà un corteo nazionale in ogni città italiana. E niente, poi abbiamo comunque in mente altre A date Milano da per dove partirà il corteo? ci sarà il preconcentramento in Cairoli. Ok, a che ora? Ok. Mi sa che è ancora da decidere se farla durante la mattinata o nel pomeriggio, quindi quello non si sa ancora. E stavi dicendo di altre iniziative invece, scusa l'interruzione? Ah sì, no, avremo in mente sicuramente altre azioni e altri presidi. E, sì, c'è anche appunto l'evento di Dax, dove ci saranno momenti di confronto, assemblee e ci sarà anche una serata con musica, proiezione di un film appunto inerente ad Dax e con Murales e ovviamente poi se ne parlerà sia al di fuori delle scuole, ma anche attraverso assemblee di istituto in ogni scuola. Ok, va benissimo. Niente, vi ringrazio per la disponibilità e scusate per l'attesa se ci siamo un po' dilungati. Non va E niente. ci sentiamo presto, grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao, a presto, ciao.